Dialogo sesto. Raccontò Anas bin Malik. Fu chiesto all'apostolo di Allah: chi è il più nobile degli uomini? Rispose: un credente che si sforza per far trionfare la causa di Allah con i suoi beni e con la sua persona.